America, in the face of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Mica male, questi sono i Bezladu Askladu, fanno parte, una band che fa parte di una rassegna andata in scena a New York, nel posto più fico di New York, si chiama Le Poisson Rouge, il pesce rosso, scusate la R arrotata, nel West Village, dove ha suonato anche Jovanotti tra l'altro, ma insomma questa è stata una occasione più solenne, più importante, soprattutto finita in prima pagina sui giornali americani e anche nei telegiornali, una rassegna chiamata Il Valzer Ribelle, musica underground dall'altra parte della cortina di ferro, uno dei tanti modi che l'America ha scelto per celebrare l'anniversario della caduta del muro. Sono arrivate band storiche, band della sovversione, come si diceva all'epoca, forze sovversive in realtà, che provarono a sfidare con le chitarre elettriche i regimi totalitari, per rivivere oggi questo momento, no, di gioventù, invece che bruciata, di gioventù motivata come era quella dell'est europeo in quegli anni particolari. Suoneranno anche nei prossimi giorni Chicago, Cleveland, Toronto e la Washington, la tournée di queste band che sottofondo oggi sentirete a più riprese: Deserter, Control Support, dalla Ungheria, dalla Polonia, band che tra l'altro raccontano nelle interviste che stanno rilasciando che a loro volta non furono capite poi neanche da Solidarność, tanto per dirne una, seguivano una chiave di ragionamento differente e poi in un certo senso sono state divorate dalla globalizzazione anche loro. Adesso si sente naturalmente Michael Jackson piuttosto che i prodotti americani anche da quelle parti. Di fatto è in pieno corso la celebrazione anniversaria dell'89 anche negli Stati Uniti d'America. La domanda di fondo sui media d'oltreoceano è: a chi va il merito di quei fatti? Negli Stati Uniti la risposta che continua a incontrare più favore è a Ronald Reagan e alla sua fiera opposizione al comunismo, però ha preso anche sempre più credito una visione, diciamo, più scettica del corso dei tempi, della irresistibile forza dei tempi, e che quindi la crescente democratizzazione e la esplosiva globalizzazione che in quegli anni prende le mosse abbia reso inevitabile l'avvento di un Mikhail Gorbachev, disciogliendo in un certo senso la guerra fredda, conducendo a quelli che sarebbero stati poi gli accordi di Helsinki. In una intervista su The Politico, James Goldgeiger, uno dei grandi studiosi della questione, un docente, uno storico della George Washington University, dice che comunque i meriti di Reagan non vanno troppo ridimensionati. Fu proprio lui a dire, con quella capacità sloganistica insuperata, fu lui a dire abbattete quel muro, e quel muro venne poi abbattuto. Sulla prima pagina nell'editoriale del New York Times, nella sezione op-ed, appare un articolo molto interessante a firma di Slavoj Žižek, il direttore del Birkbeck Institute for the Humanities, che prova un ripensamento appunto in salsa anglo-americana della caduta del muro. Ma prima, per favore, i Deserter. Pensate che questi ex ragazzi, adesso sono dei sereni cinquantenni, raccontano che i Sex Pistols non li avevano mai sentiti, neanche sulle onde delle onde medie della radio, quindi ci sono arrivati a un suono punk di questo genere per induzione, per aria che tira. Ma ecco l'articolo di Žižek intitolato 20 anni di crollo, ve ne leggo un estratto e dice: oggi è il 20° anniversario del crollo del muro di Berlino. Durante questo periodo di riflessione è stata ricorrente l'enfasi sulla natura miracolosa degli eventi che ebbero inizio quel giorno. Un sogno sembrava avverarsi, il regime comunista si abbatteva come un castello di carte, il mondo di colpo cambiava come sarebbe stato inconcepibile pensare solo pochi mesi prima. Chi in Polonia avrebbe ipotizzato libere elezioni e un Lech Wałęsa presidente? In effetti, quando la sublime nebbia delle rivoluzioni di velluto sarebbe stata diradata dalla nuova realtà capitalistica, la gente avrebbe reagito con una inevitabile delusione, di volta in volta si sarebbe poi manifestata sotto forma di nostalgia per i buoni vecchi tempi del comunismo, o come populismo nazionalista di destra, o come rinnovata paranoia anticomunista. Proprio su questo verte l'articolo di Zizek, che è buona parte della lettura americana dei fatti dell'89. Torniamo a Zizek, dice: le prime due reazioni sono facili da capire. Gli stessi di destra che decenni or sono gridavano meglio morti che rossi, oggi spesso mugugnano meglio rossi che mangiatori di hamburger. Ma la nostalgia per il comunismo non può essere presa sul serio. Lungi dall'esprimere un effettivo desiderio di ritorno alla grigia realtà socialista, è piuttosto una forma di lamento nel tentativo di scrollarsi di dosso il passato. E quanto all'avvento invece di un populismo reazionario, non è una specialità dell'Europa orientale, quanto piuttosto una conseguenza trasversale rilevabile nelle nazioni che sono prese nel vortice della globalizzazione. Più interessante, scrive ancora Zizek, è il recente ritorno di fiamma per l'anticomunismo in Ungheria e Slovenia. Nell'autunno 2006 grandi proteste contro il Partito Socialista di Governo hanno paralizzato l'Ungheria per settimane. I manifestanti collegavano la crisi economica nazionale con la gestione della crisi da parte dei successori del Partito Comunista. Negavano legittimità al governo, per quanto democraticamente eletto, e quando la polizia è intervenuta si sono sprecati i paragoni con l'Armata Rossa che nel 1956 estingueva la protesta anticomunista. Questa nuova paura del comunismo mette alla gogna perfino delle icone. Nel giugno 2008 la Lituania ha sancito una legge che proibisce l'esposizione di simboli come falce e martello, come l'esecuzione dell'inno sovietico. Nell'aprile 2009 il governo polacco ha proposto l'allargamento di divieto a qualsiasi propaganda totalitaria, includendo i libri comunisti, le divise e altra oggettistica varia. In sostanza, si può essere arrestati per aver indosso una maglietta con Che Guevara. In Slovenia la destra populista accusa la sinistra di continuità dinamica con il regime comunista, e in una atmosfera così soffocante i problemi vengono confusi con la ripetizione di vecchie battaglie, fino all'assurda pretesa, per l'appunto in Polonia e Slovenia, che l'attivismo in favore dei diritti omosessuali e della legalizzazione dell'aborto siano parte di un complotto comunista per demoralizzare la nazione. Ma allora dove prende forza questo ritorno di fiamma dell'anticomunismo? Perché vecchi fantasmi hanno ripreso ad agitarsi in paesi dove i giovani neppure ricordano i tempi del comunismo? Il nuovo anticomunismo, scrive Zizek, dà una semplice risposta alla domanda: se il capitalismo è davvero tanto meglio del socialismo, perché le nostre vite sono così miserabili? Perché, credono in tanti, questo non è vero capitalismo. Non si vive ancora in vera democrazia, ma in una sua messa in scena, mentre sono ancora le solite vecchie forze a tenere i fili del potere. Una ristretta setta di ex comunisti mascherati da padroni e da manager. Niente è davvero cambiato e serve un'altra purga. La rivoluzione deve essere ripetuta, e questa è la piuttosto inquietante, ma mi sembra atmosfericamente, psicologicamente significativa analisi che appare sul New York Times di oggi, cercando di andare oltre la celebrazione di un gesto comunque meraviglioso, soprattutto nella sua pacifica visualità, per capire però veramente le ragioni del presente, di questo passato ancora così prossimo. We'll be right back. avvocato. Concerto esterno, c'ho secondo lo prato. Buongiorno America. The yeas are 220, the nays are 215, the bill is passed. E al di là delle celebrazioni, questa è la vera copertina di Buongiorno America di oggi, naturalmente, perché ieri è stata una data, insomma, moderatamente storica, sabato, scusate, una data moderatamente storica, in una seduta straordinaria, proprio in quanto di sabato la Camera americana ha approvato, infatti, il progetto di riforma sanitaria, così fortemente voluto dal presidente Obama, dalla sua amministrazione e da una consistente porzione, naturalmente, della società americana. È stato un passaggio, come dire, faticatissimo, 220 voti a favore, 215 contrari, perché molti democratici, la bellezza di 39, hanno detto no fino alla fine, e siamo comunque a metà del guado. Naturalmente ora la legge in questione si sposta, il progetto di riforma si sposta al Senato, dove incontrerà tempi tutti da valutare e calcolare, e difficoltà anch'esse tutte da calcolare e valutare, ma sicuramente dovrà raggiungere, per diventare realtà, quella cifra di 60 favori, di 60 voti, che corrisponde per l'appunto alla percentuale di controllo che in questo momento i democratici hanno del Senato, ma non corrisponde affatto a quanti in questo momento all'interno del Senato sono disposti a votarla così com'è. Ci sarà sicuramente una opposizione interna al Partito Democratico, servirà di intercettare voti, simpatie, intenzioni e naturalmente anche progettualità dell'altro lato dell'aula, e quindi si procederà a un certo punto a una riunione di un'unica commissione in cui i leader della commissione, del comitato repubblicano e democratico, confronteranno i loro progetti e proveranno a unificarli. Si spera, i veramente veramente molto molto molto ottimisti parlano di Natale per una approvazione del progetto, i pessimisti storcono il naso e scuotono la testa, dicono 2010 forse anche ben inoltrato. Si spera in un voto per il giorno del ringraziamento, in un primo voto, ma insomma le tempistiche sono tutte da stabilire. Di sicuro l'opposizione democratica terrà duro sulla questione fiscale, sul peso fiscale del provvedimento, un peso per ora stimato attorno a qualcosa tra gli 800 e i 900 miliardi di dollari. La questione dell'opzione pubblica sarà un altro fattore di discussione. Per ora peraltro è già certo che l'opzione pubblica sarà poi appannaggio degli stati nella scelta finale di includerla o meno, e certamente la concessione di Obama sulla questione dell'aborto ha avuto un peso rilevante nel passaggio alla Camera del suo progetto di riforma sanitaria. Attualmente la legge federale proibisce l'uso di fondi pubblici per finanziare aborti, tranne che nel caso di stupro, incesto o situazioni in cui la vita della madre sia in pericolo, e la correzione di questo aspetto della legge probabilmente non sarà troppo profonda. Di fatto però festeggiano i democratici, festeggia Nancy Pelosi, che ora passa la mano a Harry Reid, il suo corrispondente democratico al Senato, che dovrà assumersi il controllo delle operazioni affinché vadano a buon fine. Poi l'America festeggia anche un uomo che si chiama Joseph Kerr, e perché fino adesso non conoscevamo il vietnamita della Louisiana, repubblicano alla Camera, unico repubblicano alla Camera che alla fine ha detto sì. I was skeptical of the bill, particularly with the pro-abortion language. And I have stated previously that I could not support a bill unless it has strong language prohibiting the federal funding of abortion. Insomma, ha detto che in questa sua dichiarazione pubblica è diventato un personaggio immediatamente e dice che era molto scettico della legge, ma quando ha visto che la questione dell'aborto, sulla questione dell'aborto, i democratici hanno fatto un gesto di buona volontà, si è sentito in dovere di sostenerlo, perché pensa che la buona vita di tanti suoi elettori passi anche attraverso l'approvazione di questa legge, che continua il suo faticato cammino, che noi naturalmente continueremo a seguire. This was a terrorist act. I will add to this, Chris. This is not the first attempt. Invece il suo cammino purtroppo lo ha interrotto davanti alla pistola di una coraggiosa poliziotta, Nidal Malik Hassan, l'attentatore di Fort Hood, che ha causato 13 vittime tra i militari in quella giornata tragica di venerdì. E questa è la voce di Joe Lieberman, noto senatore indipendente, che mette la pulce negli orecchi. Nell'orecchio agli americani, ovvero dice: guardate che potrebbe essere anche terrorismo, ma poi fa un discorso ancora più sofisticato e potenzialmente ancora più pericoloso, ovvero che significato, che peso, che impatto possono avere in questo momento i musulmani che fanno parte dell'esercito americano, sia come in senso passivo, sia come qualità della loro vita. In fondo pare che uno dei motivi che avrebbero spinto Hassan ad agire in un modo così folle e tragico sarebbe stata proprio la persecuzione a cui era sottoposto dai propri commilitoni, ma anche in un senso attivo, ovvero la disapprovazione così intensa, così religiosamente motivata di ciò che accade in Medio Oriente ad opera dell'esercito del quale magari si è membri, e come nel caso di Hassan, dal quale non si riesce a uscire per una questione normativa, praticamente contrattuale, può portare a gesti estremi. E naturalmente grande è l'inquietudine che questi ragionamenti provocano nell'anima degli americani, in particolare naturalmente dell'esercito americano. Domani Obama sarà a Fort Hood per i funerali. Seguiremo quest'altra parte del dibattito attorno a questa tragica storia qui a Buongiorno America. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Carmelo Lauricella a Milano, la mail Buongiorno America è Radio24.it, la pagina Facebook, redazione Jefferson 3, la replica dopo mezzanotte, la diretta dopo l'1:30. Qui su Radio 24, state tutti bene.